Il punto di Stefano Folli. L'attenzione internazionale per i risultati del voto in Italia è massima, lo dimostrano le parole dell'autorevole ministro tedesco Schäuble e lo conferma l'atmosfera in cui ha inizio la visita del presidente Napolitano a Washington. Con l'Italia in drammatica recessione, come ci dicono l'Istat e Eurostat, il resto del mondo vuole vedere rifiorire la crescita economica nel nostro paese, ma la vuole con i conti pubblici in ordine e soprattutto in un quadro di stabilità politica, il fattore essenziale che precede tutti gli altri. Questo dicono tedeschi e americani, anche in modo un po' irrituale, ma il mondo globale fa sì che ognuno, si può dire, abbia il diritto di interessarsi a come vota il vicino. Del resto Obama saprà rendere omaggio a Napolitano, statista che il presidente americano stima moltissimo, perno di quella stabilità appunto che l'America non desidera vedere dispersa nelle urne.